sono particolarmente affezionato a Bologna, perché insomma negli anni eroici, negli anni 70, Bologna è stata una delle capitali della musica alternativa, c'era un fermento enorme di visione alternativa, di prospettive. Se avessimo potuto vedere quello che è diventata oggi la nostra società italiana, non ci avremmo creduto, sicuro. E io ci tengo molto a dare un appuntamento a chi vorrà venire, ovviamente, il 6 dicembre al Teatro Deon di Bologna, ore 21, concerto del Banco. Perché suonare a Bologna è sempre una festa per noi, nel cuore, nella testa, si intrecciano ricordi, memorie, persone, entusiasmi, passione. Quindi il 6 dicembre alle 21 presso il Teatro Deon saremo a Bologna.